恶音 le li bottiglia bottiglia aglio aglio sveglia sveglia gladio gladio glicine glicine globo globo 练习 aglio aglio maglia maglia paglia paglia foglia foglia veglia veglia taglio taglio figlio figlio sveglia sveglia egli si sveglia alle 7. Il figlio raccoglie le foglie. Egli è nato in luglio. Vaglia. Vaglia. Glaucoma. Glaucoma. Moglie. Moglie. Gleba. Gleba. Artigli. Artigli. Glicine. Glicine. Meravigliosa. Meravigliosa. Gloria. Gloria. Canagliume. Canagliume. Glucosio. Glucosio. 谚语 Proverbi. Sbagliando si impara. I figliuoli dei gatti pigliano i topi.